Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Testamento biologico, la CEI apre alla legge. Bagnasco su bioetica, immigrati e economia. I vescovi spingono affinché il Parlamento faccia una legge sul fine vita che dia spazio al testamento biologico senza favorire forme mascherate di eutanasia. Ne ha parlato ieri ad apertura del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, il Cardinale Angelo Bagnasco. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia Carmelo Lauricella. Noi stiamo leggendo il Corriere della Sera, sì, perché la notizia che c'è su tutti i quotidiani è appunto un'apertura della CEI, non solo sul tema del testamento biologico, come vedremo dai quotidiani, ma anche sul tema dell'immigrazione, il tema importante dell'immigrazione dopo alcuni fatti di sangue che sono su tutti i quotidiani. Il richiamo dei vescovi è Massimo Franco, a cui è stato affidato dal Corriere della Sera un commento, una valutazione sulla parte relativa al testamento biologico. Il lessico usato dal Cardinale Angelo Bagnasco riflette tutta la diffidenza dei vescovi italiani per il modo in cui è stato riempito finora il vuoto legislativo sul testamento biologico. Chiedere al Parlamento una legge sul fine vita tende a sollecitare una riflessione nuova e a prevedere una serie di paletti legali che dovrebbero impedire forme mascherate di eutanasia. In sé il tema viene dibattuto da tempo e CEI e Vaticano hanno scelto posizioni così nette da comportare anche polemiche laceranti. Ma l'azione di Bagnasco ad alcuni recenti pronunciamenti giurisprudenziali sembra un riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Eluana Englaro, la ragazza di Lecco in coma dal 1992. È quel dramma ancora dolorosamente sospeso ad avere suggerito una pressione esplicita sul potere legislativo. Il Massimo Franco si occupa anche dell'altro aspetto, però, del discorso di della CEI, di Angelo Bagnasco, l'aspetto immigrati. Bagnasco non trascura, scrive ancora Massimo Franco, di insistere sull'impoverimento di chi ha un solo reddito e sui segnali pericolosamente negativi che comincia a dare il paese nel rapporto con gli immigrati. Sono richiami che qualcuno può ritenere prevedibili e quasi di maniera, eppure appaiono significativi dopo i recenti episodi di violenza a Milano e in Campania, nei quali è difficile non scorgere anche germi di razzismo. Allora l'immagine di un'Italia non bella, ma che la CEI si rifiuta di considerare da incubo, forse perché la vede come l'estrema diga contro una cristianofobia annidata perfino nelle pieghe dell'Europa e di alcune leggi italiane, un incubo da scacciare a costo di essere accusata di ingerenza. Ecco questo il Corriere della Sera, Massimo Franco, come vi dicevo, richiama la presa di posizione nuova effettivamente della CEI, è molto forte anche sul tema immigrazione. Adesso torneremo su questo argomento. Voglio ricordarvi che il Corriere della Sera titola, come quasi tutti i giornali italiani, la prima notizia è: liberi i 5 turisti italiani, annuncio dell'Egitto, ma è giallo, forse rilasciati 5 italiani rapiti in Egitto, già forse, annuncio dal Cairo, ma Roma non conferma. E poi c'è un retroscena di Fiorenza Sazzanini che ci scrive: la scelta, quegli ostaggi merce preziosa, la scelta è quella di tenere un profilo basso per raggiungere un obiettivo preciso, evitare che gli ostaggi occidentali diventino merce preziosa per i gruppi terroristi, impedire che, così come è già avvenuto, un eco troppo forte possa scatenare gli appetiti dei fondamentalisti islamici. Ecco questo il Corriere della Sera, che peraltro ha una vignetta molto carina a proposito di Alitalia, di Giannelli, come al solito molto cattivo, la ricerca del partner, c'è Silvio Berlusconi vestito da mago, che è un personaggio ormai diventato tipico del vignettista Giannelli, da Air France a Aria, da Air France, per capire la battuta, ad aria fritta. Ma c'è un Silvio Berlusconi in un retroscena di Francesco Verderami che dice: se falliamo non ci rialziamo più. Il pressing del Cavaliere su politici, sindacalisti e soci della cordata CAI: se falliamo, attenzione, non ci risolleviamo più. Questo il Corriere della Sera. Volevo però tornare sulla vicenda immigrazione. La Repubblica dedica invece una pagina ad altro aspetto, quello che vi ho citato, che proprio è Marco Politi, che scrive a proposito di Bagnasco e del timore, il pericolo razzismo, violenze anti-immigrati, allarme dei vescovi. Il cardinale Bagnasco, scrive Marco Politi, lancia l'allarme: l'Italia non scivoli in un clima di violenze razziste. Il sanguinoso raid razzista di Castelvolturno e la risposta violenta degli immigrati, il massacro razzista di un ladruncolo a Milano e la dimostrazione che ne è seguita sono per i vertici della Chiesa un segnale preoccupante. C'è speranza, sottolinea il porporato, che l'Italia non perda il suo tradizionale spirito di accoglienza, abbandonandosi ad una regressione culturale, messo tra virgolette, regressione culturale presa dal discorso di Bagnasco. Ma l'immigrazione, scrive ancora Marco Politi sulla Repubblica, resta un nodo fra i più critici. Se finora si è riusciti a procedere senza spaccature sociali o situazioni drammaticamente fuori controllo, adesso si registrano segnali di contrapposizione anche violenta che sarà bene da parte della collettività ai vari livelli non sottovalutare. Ecco, lo dicevamo anche ieri e bisogna dire che ancora una volta, come dire, la Chiesa, insomma, e comunque la CEI riesce a cogliere i segni di una pericolosità sociale di un fenomeno, perché qui proprio Bagnasco è quello che sta dicendo. Su questo fronte il cardinale suggerisce un'azione comune europea per contrastare l'immigrazione clandestina, stringere patti di cooperazione con i paesi di provenienza, lavorare per l'integrazione sociale e accogliere nella trasparenza le domande di ricongiunzione familiare. Ecco, quindi abbiamo questa la Repubblica su questo. Torneremo sulla Repubblica. Pietro Citati, che scrive lo scrittore: due o tre cose che non so delle donne. Le incognite sul maxi piano di salvataggio della finanza USA, messo a punto dal segretario al tesoro Henry Paulson, hanno gravemente pesato ieri su Wall Street, che ha anche subito l'impatto dello strappo record del petrolio. Il BTU a New York ha guadagnato fino a $25, chiudendo a $120,9 al barile. È il maggior rialzo giornaliero nella storia della borsa petrolifera, causato dalla chiusura di posizioni scoperte. Pesante la caduta del dollaro, oltre 1,48 contro l'euro. Ecco, quindi torna, secondo il Sole 24 Ore, che in prima pagina apre con il titolo "Borse, il piano USA non basta", beh sì, torna l'incubo petrolio. Sembrava che fosse in discesa costante, ma questo è un nuovo balzo davvero forte. È stato anche l'ultimo giorno delle grandi banche di investimento. Morgan Stanley, Goldman Sachs ora sono banche commerciali. Il G7 è pronto a intervenire per la stabilità del sistema globale. In Italia il ministro Giulio Tremonti ha convocato per domani il Comitato per la Stabilità Finanziaria. Questo il Sole 24 Ore. Ma sul Sole ci sono altri argomenti. Carlo Bastasin firma un commento di prima pagina, commento editoriale, diciamo: se il risparmio anche nostro paga la tassa occulta USA, se sentite puzza di bruciato avete probabilmente ragione. Una crisi finanziaria infatti è diversa da un incendio, perché i pompieri finanziari, le autorità di governo e di vigilanza pensano prima di tutto a salvare la casa anziché gli inquilini, ovvero i risparmiatori. E questo ci dice Carlo Bastasin nella sua lunga riflessione su Stati Uniti, Europa e il destino del nostro risparmio. Ancora però abbiamo Mario Margiocco che parla della City, del fallimento a Manhattan, la rabbia degli hedge e i miliardi spariti di Lehman. Il premier britannico Gordon Brown è personalmente coinvolto nel tentativo di recupero di 8 miliardi di dollari volatilizzati dalle casse londinesi di Lehman Brothers a poche ore dal crack. Anche su lui preme la rabbia di almeno 500 investitori, tra cui molti hedge fund. Scusate, ancora Claudio Gatti firma un'inchiesta Il crack dei controlli americani, il boom dei mutui subprime e degli strumenti derivati, da cui è nata la profonda crisi della finanza USA, ha le sue radici nella deregulation avviata 10 anni fa dal Congresso e ratificata dall'amministrazione Clinton prima e da quella Bush poi, e nella mancata vigilanza da parte delle authority. Quindi questa volta non solo nell'inchiesta di Claudio Gatti, ma insomma proprio negli Stati Uniti, sotto tiro, sotto processo, sono le authority, perché molti si chiedono, effettivamente se lo chiede anche Claudio Gatti nell'incipit della sua inchiesta, dice Claudio Gatti, con il sistema finanziario internazionale in ginocchio, da giorni gli addetti ai lavori si chiedono che cosa stessero facendo le autorità di vigilanza americane mentre il mercato veniva sistematicamente imbottito di carta straccia, in particolare la tanto rinomata Federal Reserve, ultimamente tanto attiva nel distribuire soldi a destra e a manca per fermare l'emorragia. Dove è stata per tutti questi anni? Già, domanda legittima, visto che poi le autorità di vigilanza dovrebbero proprio fare questo, cioè vigilare su evitare i disastri. Ora io voglio, vabbè, a parte vi avevo segnalato la Repubblica, questo interessante, vabbè, servizio di Pietro Citati, lo scrittore, 2 o 3 cose che non so delle donne, i misteri dell'universo sono infiniti, non vorrei parlare dei grandi misteri, Dio, il Big Bang, il male, il tempo, l'evoluzione, il primo luogo perché non è argomento da giornale, poi non ne so nulla, ma di un piccolo mistero che gli uomini di sesso maschile contemplano ogni giorno e contro il quale talvolta si scontrano le donne. Ed è una lunga riflessione dello scrittore sulla differenza in termini di sensibilità, di tempo e di spazio, dice Pietro Citati, come uomini e donne vedono diversamente il tempo e lo spazio. Ecco, questo il La Repubblica, Pietro Citati sulla Repubblica. Ora io vorrei trasferirmi al Riformista, perché il Riformista decide di mettere in prima pagina un servizio di Fabrizio D'Esposito a proposito della Campania, che non farà per nulla sorridere il partito di maggioranza relativa, cioè il partito di governo, il PDL. Vediamo che cosa scrive Fabrizio D'Esposito a proposito il casalese che vuole il posto di Bassolino, e vediamo chi è in Campania, il capo di Forza Italia è un casalese, Doc, già attivista del PSD, il Partito Socialdemocratico Italiano. Si chiama Nicola Cosentino, è nato a Casal di Principe nel 59 e da 2 settimane è finito nel tritacarne delle inchieste giudiziarie su camorra, rifiuti e politica. Secondo le rivelazioni dell'Espresso, Cosentino sarebbe infatti il referente politico più importante dell'impero di Gomorra, retto dalla diarchia Schiavone Bidognetti, cui adesso gli investigatori danno in carico anche la strage degli africani di Castel Volturno. A parlare dell'esponente azzurro davanti ai magistrati antimafia di Napoli è stato un pentito di nome Gaetano Vassallo, indicato come il ministro dei rifiuti del clan, un po' come il suo tempo Angelo Siino venne rubricato come ministro dei lavori pubblici della mafia. Ai PM Vassallo ha raccontato la storia della società Eco 4 dei fratelli Orsi e descritto un episodio. Presenziai personalmente la consegna di 50.000 contanti da parte di Sergio Orsi a Cosentino, incontro avvenuto a casa di quest'ultimo a Casal di Principe. Ricordo che Cosentino ebbe a ricevere la somma in una busta gialla. Vassallo canta che è ancora aprile di quest'anno. Insomma, un'accusa davvero pesantissima, anche perché il Riformista sostiene che il casalese, cioè appunto questo personaggio, vorrebbe il posto di Bassolino a presidente della regione. Questo il Riformista. Adesso però volevo invece passare al Giornale. Il Giornale, intanto il Giornale titola i piloti giocano a golf, i falchi organizzano un torneo e minacciano, siamo stressati, a rischio la sicurezza dei voli a proposito del crack all'Italia. E poi c'è una foto notizia che effettivamente fa una certa impressione, se si guardano le cifre, Maruschka e le altre, quante precarie conoscete da 2.500 euro netti al mese? Si chiede il servizio di Paolo Bracalini sul giornale, i precari contro l'hostess Maruschka, ci andiamo noi per quei 2.500 euro, con l'intervista al Corriere della bella Maruschka, assistente di volo all'Italia da 2.500 euro al mese per 3 ore al giorno di lavoro, l'hostess precario è diventato uno dei mestieri più ambiti in Italia. Basta chiedere ai precari normali che quella somma la mettono insieme in 3 mesi per ottenere un quadro ben più triste di quella della passionaria di Fiumicino. Per esempio gli insegnanti. Ho letto quell'articolo e mi è sembrato pazzesco. Se vuole facciamo subito cambio, dice un insegnante alla hostess che guadagna 2.500 euro al mese. Ora, però il giornale pubblica anche, a mio parere, un'interessante inchiesta sul Milano, viaggio nel mercato nero delle badanti. Giulia Guerri scrive: vengono ingaggiate a 800 euro al mese in nero e senza permesso di soggiorno, sono le badanti venute dall'est, disponibili al mercato nero di Milano, alla fermata della metropolitana di Cascina Gobba o nei parchi Sempione e Solari. Ecco, questo chi volesse sapere, ormai di mercati neri ce ne sono tantissimi, e questo è uno dei tanti che viene descritto. Solo 800 euro in euro a Milano, la badante si sceglie al mercato ogni sabato e domenica nei parchi e le fermate della metropolitana. Ucraine, russe e moldave si offrono ai clienti con un cartello al collo, addirittura: cerco lavoro, subito disponibili anche per un giorno soltanto, facciamo le pulizie, stiamo coi bimbi e con gli anziani, cuciniamo per la famiglia. Questo è l'altra faccia, viene definita, dell'immigrazione. Questo è il giornale che peraltro affida invece a Max Gallo una riflessione sulla bufera finanziaria. Perché la crisi ci farà bene? Se l'attuale crisi finanziaria fosse per il capitalismo ciò che l'uragano è per il clima, un fenomeno devastante, ma nella logica della natura, prevedibile, arginabile, però insopprimibile, che quando si scatena rivela la sua dinamica vitale. Questo dice Max Gallo sul quotidiano Il Giornale. Io volevo invece soffermarmi a questo punto sul quotidiano La Stampa. Ecco, sì, intanto La Stampa apre, anche La Stampa, col sequestro nel deserto è giallo e 5 torinesi rapiti in Egitto. Sapete, il Cairo liberati, ma Roma non conferma. Scrive, c'è una riflessione di Vittorio Emanuele Parsi, scusate, quei fragili alleati, non sono ancora chiari i moventi del rapimento di 11 turisti occidentali avvenuti ieri nell'Alto Egitto. Fonti ufficiali del governo lo hanno classificato come un atto di banditismo comune e non di terrorismo. Questo lascia sperare in una felice conclusione della vicenda, che vede coinvolti anche 5 nostri connazionali. D'altra parte, in anni non lontani, proprio in Egitto, i turisti stranieri erano stati oggetto a più riprese di una campagna mirata da parte di formazioni che si chiamavano ad Al-Qaeda. E come nel caso yemenita insegna, il confine tra banditismo e terrorismo è spesso labile, soprattutto laddove le istituzioni politiche statali faticano a consolidarsi, a sviluppare efficaci canali di rappresentanza. Quindi diciamo questo. Usa toni forti La Stampa a proposito dei piloti, gioco sporco, rischio di incidenti, nuovo ultimatum per l'Italia, a lanciarlo ieri è stato l'ENAC, questo lo sappiamo. E c'è un'altra notizia, è che il gas non si taglia neanche ai morosi. Milano, diffidato l'ENI, è un bene essenziale. Scandalo scuola. Più bidelli che carabinieri. Tutte le cifre di una commedia dell'assurdo, inscenata dalla sinistra. Questo il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, che ha affidato a Gianluigi Paragone, vice direttore, un commento su questa vicenda della scuola. Che se ne fa una scuola materna, un elementare di 15,6 bidelli per istituto, praticamente 2,2 per classe? Boh, proviamo a lavorare in fantasia, uno per aprire la scuola, uno per chiuderla, uno per pulire, uno per rispondere al telefono, uno per Non mi viene in mente null'altro, scrive Paragone. Stavo per scrivere, per preparare da mangiare, pulire i piatti, ma mi dicono che quasi tutte le scuole ormai hanno il servizio mensa appaltato a ditte esterne, quindi ai bidelli non resta molto da fare se non rassettare un po' la refezione, riallineare sedie e tavolini. Mentre vi sforzate con me a pensare alle altre possibili mansioni dei 15,6 bidelli per scuola, è bene che vi spari anche il numero totale degli stessi, perché a vederlo scritto fa una certa impressione: 167.000, un esercito, anche se inutile a fronteggiare la questione sicurezza. Ecco, questo scrive Gianluigi Paragone sul quotidiano Libero, in polemica con queste con questa esorbitante cifra del numero dei bidelli. E il quotidiano Libero pubblica anche un servizio di Luigi Gambacorta, abbastanza interessante anche per le cifre. Allora, pubblica distruzione. L'Europa ha una scuola migliore con la metà dei nostri docenti. In Italia c'è un insegnante ogni 11 alunni, mentre in Francia e in Inghilterra ne hanno uno ogni 20 e i nostri professori sono meno pagati. Un esercito di quelli con ferma obbligatoria di una volta, un esercito scalcagnato, un parcheggio per troppi alunni, una forma di assistenza per tanti docenti e collaboratori, tutti mal pagati e peggio motivati, un costo, uno spreco enorme per tutti, impietose le cifre. Sapete quanti bidelli? E qui inizia la storia dei bidelli, insomma, rispiega questa vicenda delle cifre. C'è anche qui una foto che notizia in qualche modo, perché parla da sé. Ci sono i piloti in mutande, guardateli, ora vogliono comprare loro Alitalia. E Oscar Giannino, il conto alla rovescia per Alitalia prevede ancora una settimana, come un tavolo di poker. Chi perde perché non ha saputo pescare le carte al momento giusto continua a bleffare, rischia di perdere tutto, e qui ci si riferisce in questo caso ai piloti. Ora, scusate, sì, stavo cercando il giornale. Ah, ecco, sì, il quotidiano Il Manifesto, invece, che le ali a chi lavora, fida Loris Campetti, un editoriale compagni di merende in cui si dice sostanzialmente che l'obiettivo è colpire la CGIL, all'Alitalia riparte dall'asta, il commissario Fantozzi pubblica il bando per la manifestazione di interesse che deve arrivare presto, altrimenti l'ENAC revocherà le licenze di volo, si fanno avanti pilote e steward, ce la prendiamo noi, mentre la CAI conferma il suo dietrofronte. Ecco, questa è forse la novità, nel senso che se la CAI conferma il suo dietrofronte, davvero a questo punto si riaprono tutti i giochi. Ma io volevo mi riferivo sul Manifesto a un articolo di Alessandro Robecchi, giornalista satirico, che qui scrive tanti piccoli Hitler. La frase è di quelle che fanno fare un salto sulla sedia. Già una volta, e qual è la frase? La frase che ha pronunciato Silvio Berlusconi qualche giorno fa a proposito di Ahmadinejad e il confronto con Hitler. Dice Berlusconi: già una volta c'è stato un tal signore che all'inizio sembrava un democratico e che poi ha fatto quello che ha fatto. Parole e musica di Silvio Berlusconi, che stabilisce un altro record: è il primo leader mondiale nel dopoguerra ad attribuire una patente di democrazia niente meno che a Hitler, forse punta al Guinness dei primati. Avendo decine di portavoce, giannizzeri e camerieri, Silvio Berlusconi è stato subito protetto da una fitta cortina di parole. E ecco, qui dice: voleva solo polemizzare con il presidente iraniano, non l'ha fatto apposta, non è cattivo, lo disegnano così, e tutte le scemenze che si sentono in contorno alle pittoresche esibizioni del capo del governo. Ma le parole restano, e anche se pure i sassi sanno che Hitler non è stato democratico nemmeno all'asilo, nemmeno in un attimo di distrazione, nemmeno per un nanosecondo, e men che mai all'inizio, l'ultima esternazione porta il suo suo piccolo mattoncino alla costruzione della storia riveduta e corretta. Ecco, questa è la polemica che viene fatta sul Manifesto a proposito delle parole di Silvio Berlusconi nel confronto che ha fatto tra il leader iraniano e Hitler. Ecco, il foglio dedica ampissimo spazio, come è già stato fatto nei giorni scorsi da altri quotidiani, a Giulio Tremonti e alla sua analisi della crisi e alle sue proposte per uscire dalla crisi. Il day after del professor Tremonti. Per fare globalizzazione è stata firmata una cambiale mefistofelica, un patto diabolico tra America e Asia. La cambiale è scaduta, dice Tremonti. Alcune medicine hanno aggravato la malattia. Lo sgravio fiscale non ha funzionato. Doveva sostenere i consumi, ma il crash nasce proprio dall'eccesso di consumi a debito. Questo dice Giulio Tremonti. E ancora, i consigli di Guido Rossi a Keynes e Roosevelt, aggiungerei un nome insospettabile. Per capire cosa è successo, dice Tremonti, e cosa sta succedendo, bisognerebbe rileggere e rileggere il Faust di Goethe, la più fantastica storia sulla trasformazione della ricchezza, sul suo passaggio dal materiale all'immateriale, suggerisce Giulio Tremonti. Il ministro dell'economia incontra il foglio nel momento in cui dagli Stati Uniti arriva la telefonata in conference call sulle tre mosse del governo USA: il freno imposto a Wall Street, dove in borsa sono state vietate le operazioni allo scoperto perché speculative, la normalizzazione delle ultime due banche di investimento rimaste e poi l'ultimo megapiano di salvataggio pubblico. Il quotidiano Il Foglio dedica davvero tanto spazio, oltre che l'apertura su quattro colonne all'incontro con Giulio Tremonti, addirittura una intera pagina. Il day after del professore, il ministro Tremonti risponde ai neoapocalittici e ci spiega come si può uscire dalla tempesta finanziaria del secolo. Un azzardo da casinò, non era necessario leggere le carte geografiche, era sufficiente leggere i bilanci delle mega banche. La leva finanziaria è nel rapporto di 20 o 30 a 1, questo sta dicendo Tremonti per spiegare quello che è avvenuto. Non è una sfida la partita culturale, non è una sfida accademica, è una partita culturale, alla fine una partita politica. Non è la fine del capitalismo, ma del mercatismo. Ecco, questo è un altro tema fortissimo che crea polemica tra gli economisti. Poi ancora, con Keynes, oltre Keynes, l'intervento pubblico può essere più produttivo che mettere le masse a scavare buche tanto per pagarle, fermo restando che Keynes non era solo questo. Ecco la rivalutazione di Keynes da parte di Giulio Tremonti. E infine, dice ancora, la regia dello Stato, l'autostrada del Sole, è stata una grande opera di unificazione e modernizzazione del paese, un'opera pubblica pur se basata su capitali privati. Ecco, quindi in questo servizio del Foglio c'è tutta la filosofia politica, culturale ed economico-finanziaria di Giulio Tremonti, nostro ministro dell'economia, a quale il Foglio dà un grande spazio, come vi dicevo. Mi pare che a questo punto abbiamo finito il nostro tempo, quindi io vi ricordo ancora che potete intervenire al microfono aperto dalle 8:30 alle 9:00 telefonando all'800 24 00 24.